chiacchiere distintivo, solo chiacchiere. E 55 minuti primi, bella a tutti e a tutte. Regoliamo i livelli. Radio Onda Rossa, 25 o'clock, 87.9 della banda romana e laziale. Questo è l'avviso di disconnessione, ma non per questo. Perdiamo attenzione, eh? Si ritorna come tanti anni fa, insomma, quando tanti anni fa avevamo addirittura il televideo, un occhio all'ultima ora per vedere cosa succedeva. Oggi, insomma, ci abbiamo aperti il sito dell'ANSA e di Sputnik sul PC per avere, nel caso. Un occhio. Roba da questi microfoni ne avevamo commentate e partecipate di queste guerre spettacolo, diciamo, che non per questo sono meno guerre. E ci troviamo ancora qui a Onda Rossa. Qualora sia il caso anche a commentare, lo faremo anche se è difficilissimo, eh. È proprio quello, proprio di quello parleremo. Nel mentre invece vi diciamo che innanzitutto, vabbè, trasmettiamo oggi e poi ci si risente da questa voce, da questa fascia oraria, se non andiamo in radio proprio il 30 di marzo. Sì, siamo costretti un po' per necessità, un po' così, anche perché speriamo di andarcene per un po' di tempo, a saltare tre puntate, tre mercoledì consecutivi. Ed è per questo che triplichiamo l'appello a sottoscrivere per Radio Onda Rossa. www.ondarossa.info è il sito, quindi ve lo dico tre volte, eh. Vai su sostieni sul sito di www.ondarossa.info. Ci sono tutte le modalità per sostenere questa emittente, c'è una paginetta, leggetela, trovate quella che è più è agile per voi. E poi vi ricordiamo anche il 61804001, che è il numero del conto corrente postale da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volsci 560185, Roma, San Lollo. Questo perché Radio Onda Rossa vive senza padroni e senza padrini, come ci ha insegnato a dire il buon Federico di Visionari, dai, usiamo il vecchio termine, di tutta scena, ormai diventata da un po' di anni a questa parte. Vi ricordiamo anche, perché per le vostre comunicazioni alla radio, oltre ai social, potete utilizzare la mail ondarossa@ondarossa.info, la nostra di mail per disturbarci, per mandarci spam, per sottoporci magari le vostre tracce, 25oclock@ondarossa.info. E poi lo storico numero di Radio Onda Rossa, 06491750, per farci sapere che ci siete e per comunicare con noi in diretta. Angel Dera Dorian. Eccoci quindi in diretta, 23.06, minuti primi, dicevamo. Angel Dera Dorian. Componente dei Dirty Projectors. Classe 1986. Questo è il primo album solista. Che si chiamava The Expanding Flower Plant. Ne è uscito un secondo, Find the Sun, del 2020, che però non abbiamo avuto modo di ascoltare. E quindi ci teniamo questo lavoro del 2015. Qui abbiamo ascoltato Your Creator, manco a dirlo lei è di origine armene e manco a dirlo di figlia d'arte, diciamo, di musicisti, come credo ogni armeno. Comunque buona parte di essi, chi può probabilmente, ma comunque la musica. È un elemento fondamentale e peraltro con degli ottimi risultati, insomma, perché moltissimi sono i musicisti, soprattutto nel mondo classico, della musica classica, che vantano origini caucasiche di quel paese, insomma, o comunque della diaspora armena, perché gli armeni stanno un po' dappertutto, in Turchia, in Siria, in Iran. Comunque questa è una bella sperimentazione di Angel Dera Dorian, Dera Dorian nei dischi. E ce ne staremo tranquilli proprio per smorzare un po' l'isteria, no? E se volete anche un po' l'apprensione che ci porta, ci riguarda in questi momenti in cui, come dire, ogni guerra è una scintilla. Anche se il locale può provocare dei disastri molto maggiori di quelli che già ingenti provoca comunque. Ci spostiamo sempre in Nord America e sempre su sonorità notturne, come dire, e andiamo a Calgary. Ancora un musicista piuttosto giovane, insomma, 45 anni, viene da Calgary, dal Canada. Incide dal 2004, si chiama Chad Van Galen. Dal lavoro del 2017, Light Information. Ci andiamo ad ascoltare due tracce. La prima si chiama Golden Oceans, la settima per l'esattezza, e poi Face Slit, la ottava. Onda Rossa 23, 16 minuti primi, siamo ritornati ad una conduzione, diciamo, classica. Cioè, raccontare le tracce e metterle. E andare avanti così, accompagnarvi un po' nella notte di Onda Rossa. She was a shape shifter. Politics didn't matter. Anche se poi il pensiero volente o nolente. No, no, she's born a million times over. Gira altrove in queste continue emergenze. Quello che ci piaceva dire, che dicevamo è molto difficile, perché poi in realtà tutti questi anni appunto di questi fatti incombenti, importanti, preoccupanti, grossi, epocali, parte l'accelerazione subita, forse sia è noi che ci sembra che il tempo passi molto in fretta, insomma, comunque molte cose successe nell'ultimo decennio e molte poche cose che in realtà hanno dipeso dalla possibilità delle piazze, delle persone, dei compagni, della gente, delle compagne, delle donne, di quello che vi pare, di poter in realtà interagire in maniera o determinare comunque la realtà. Qui in realtà gli ultimi avvenimenti ci lasciano un po' così, interdetti, basiti, non siamo in grado di esprimere una posizione netta e precisa. Così, d'impeto, d'impulso, come se sapessimo già come andava a finire. In parte cioè ci sembra più difficile, dai. Ci sembra più complicato. In realtà però bisogna anche filtrare, bisogna essere capaci di filtrare quello che viene posto all'attenzione pubblica. Non che non sia un salto di qualità, insomma, una invasione in Europa da parte di un esercito non è proprio cosa di tutti i giorni, però insomma sulla faccenda della guerra qualche cosina la potremmo pure dire. Insomma, la guerra è, come dicevamo prima, è un incendio, una miccia, una scintilla che brucia da qualche parte del pianeta, ma in realtà dal dopoguerra, dalla seconda guerra mondiale, ma anche da prima probabilmente, insomma, ci sono dei periodi di calma, di pace apparente, ma sempre apparente rimane. Ci troviamo a vivere praticamente in uno stato di guerra permanente, alle volte guerreggiata, alle volte meno. Però senza soluzione di continuità, almeno per quanto riguarda la nostra memoria, potremmo andare dal Vietnam fino a oggi e riscontrare che non è mai esistito un periodo di pace, vero? Magari le guerre sono state più lontane, magari sono state più nascoste, magari non se ne parlava semplicemente, però. La composizione del pianeta in blocchi determinava senz'altro nel secolo scorso una disciplina, se questo termine si può usare, della possibilità di modulare le guerre, insomma, lo spettro nucleare o del conflitto fra i due blocchi, insomma, era uno spettro che in qualche maniera limitava. Le guerre a essere locali. e sempre nella cornice di questo scontro, quello che veniva detto lo scontro fra superpotenze. Poi c'è stato un periodo in cui di superpotenza ce n'era una sola, ma le guerre, a quanto pare, se la memoria non ci inganna, non ci sembra che abbiano diminuito in numero e in intensità. Qualcuna giustamente dice il modo patriarcale. Di concepire il conflitto, di renderlo plastico e testosteronico, diciamo. Un fatto quasi culturale. E probabilmente questa è una delle chiavi di lettura, forse anche quella più radicale, più fonda, più profonda. Dopodiché però le guerre ci stanno, come ci stanno i poteri patriarcali, più o meno. Ma aggiungeremo anche capitalistici, imperialistici, colonialistici, insomma, con tanti aggettivi e tanti qualificativi. Ogni tanto ci arriva una sberla e ci arriva anche grazie all'unisono delle comunicazioni che fanno comparire una guerra improvvisamente per magari un fatto che coinvolge qualche connazionale, allora ci si accorge che quella guerra c'è, oppure quando proprio la guerra diventa appunto un fatto importante come l'ingresso delle truppe russe in Ucraina o in Ucraina, a seconda che si voglia dire alla russa o là, alla Ucraina, appunto. Vabbè, noi abbiamo parlato tanto, vi facciamo rilassare. È uscito nel 2015 questo lavoro per quanto riguarda Time Impala. Ne è uscito anche uno molto più recente, mi pare proprio nel 2020 o 2021, l'abbiamo segnalato e fatto ascoltare. Forse un pochino più elettronico, un pochino più, insomma, ci piace un po' di meno di questa roba qua. È sempre qualcosa di questa roba qui del 2015, dico, sempre di Time Impala. Si chiama Currents il lavoro. Sembrerebbe un lavoro molto semplice, quasi melodico, quasi un facile ascolto così. Nemmeno troppo impegnativo, nemmeno troppo arzigocolato per essere, e sempre non proprio ascrivibile al mondo della psichedelia per come siamo abituati ad ascoltarla. In realtà sono lavori che vanno ascoltati sul susseguirsi di più tracce, quindi in una forma un po' desueta oggi, in cui si tende ad ascoltare più la musica attraverso le piattaforme e quindi lasciare andare i suoni secondo delle compilazioni che fanno le macchine o il caso, gli algoritmi. Oppure appunto l'estrema facilità con cui ci si mette davanti al PC e se si è dotati di un buon impianto si riesce anche ad ascoltare in maniera decente, lontani dall'ascolto del disco che era ascolto per ascolto. È un tema che, su cui ricorreremo ormai ad aprile, insomma, visto che non trasmetteremo. Vabbè dai, la faccio corta. Prima traccia per questo Current, Let It Happen, Time Impala. e 34 minuti primi, Time Impala. Let It Happen, in realtà Time Impala, insomma, è il progetto che esce dal cilindro di Wayne Parker. Nell'ultimo disco praticamente ha fatto veramente tutto da solo, dal vivo ovviamente si propone con una serie di artisti che lo accompagnano, non lontano dal circolo del mainstream vero e proprio. Però comunque con le radici ancorate in quella neopsichedelia australiana che abbiamo sempre seguito da queste parti, a partire da Voodoo Gurus o da tante altre formazioni, a partire dagli anni 80 e 90. Radio Bird, ma insomma tutto quel contesto là. Un ascolto che può essere anche così per le radio commerciali, senz'altro. Ma dicevamo, invece, l'ascolto completo dei lavori è più una questione così, di un racconto intimistico che ci regala la giornata. Ecco, questo è un po' il concetto che secondo me esprime i suoni dei Time Impala. Veniamo invece, passiamo invece in quel del territorio delle isole britanniche e per metà scozzesi, un lavoro qui del 2012, nome del gruppo, nome della band, Django Django. Marian Levin, anzi David McLean, che però si fa chiamare Marian Levin, è fratello di Jack McLean, quindi un'altra generazione. Adesso attualmente è un produttore cinematografico, direttore cinematografico più che altro, ma lo ricorderemo per essere membro dei Beta Band, una delle band più strane scozzesi, appunto, degli anni 90 fino al 2004 in attività. Abbiamo mandato molto di loro, molto bizzarri. Vabbè, da questo lavoro del 2012 di esordio per quanto riguarda Django Django, abbiamo selezionato Zoom Zoom, credo, e Waveforms, anzi la prima è quella che andiamo ad ascoltare. Anzi, più adatta forse ai tempi, alle notti così di apprensione che stiamo vivendo. Ascolteremo Fire Waters e Wave Form. Horns. Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza, sono le 23.48 minuti primi, si va avanti. Quindi anche qui molta elettronica. Ma anche molta ecletticità per quanto riguarda Django Django. E così ci viene in mente che anche da parte loro ci siano delle influenze, proprio a partire dall'ecletticità, ma alle volte anche dagli stessi suoni del maestro. E quando parliamo del maestro parliamo di un altro vecchio personaggio che ci ha accompagnato per tanti anni anche nelle selezioni della radio o nelle influenze più o meno esplicite a lui attribuite, Star Ridgway prima di tutto, ma tantissimi sono gli artisti che si sono ispirati, questo è quello che mi viene in mente. Ennio Morricone ovviamente ci riferiamo, morto a 92 anni nel luglio di 2 anni fa. E che ci ha lasciato un'infinita, veramente, collezione di musica per film essenzialmente, ma non solo, insomma, la sua opera anche come compositore, che ha fatto anche moltissimo di sperimentale negli anni 60. Il buon Elettrodo ci ha fatto ascoltare alcuni esperimenti di musicisti a lui contemporanei e che con lui si cimentavano. E diciamo il cui peso poi in realtà, il peso suggestivo proprio nella creatività di tanta musica, è un peso assoluto. Sono tantissime le collezioni di musica di Ennio Morricone uscite in vari formati e nel corso degli anni. Qualcuno dice che l'accoppiamento, l'associazione con Sergio Leone sia quella più riuscita. In realtà Ennio Morricone ha scritto tantissimo, composto veramente per un numero di film che lo hanno portato anche poi all'Oscar alla carriera, a tanti riconoscimenti, insomma, con il Golden Globe. Nel Mare Magnum, quindi, delle musiche di Ennio Morricone, abbiamo qui selezionato un paio di esempi. Quindi ci andiamo ad ascoltare Chi mai dal film Maddalena, e poi la ballata di Hank McCain, e comunque per concludere il pensiero di prima di mandare Ennio Morricone, che anche la guerra ha raccontato con le sue musiche. Un'altra cosa è certa, della guerra ci rimettono sempre i poveracci. Thank you. Come sapete bene, insomma, la trasmissione 25 O'Clock inizia con Se solo chiacchiere distintivo, urlato da Robert De Niro verso Andy Garcia. Robert De Niro che interpreta Al Capone. E questa è dagli Intoccabili, proprio da Untouchable, dove il film in cui si dipana la storia che porta a Sei solo chiacchiere distintivo. Al Capone che viene condannato per evasione fiscale. E questa è la ballata di Hank McCain dagli Intoccabili, e Ennio Morricone da capo. No man ever was nor ever will be like the man called Hank McCain. They can lock him up, but they can never, never stop him living up. Life had taught him long ago the simple fact he was on his own. Life had taught him not to count on anyone except himself alone. McCain, how to care for number one, how to take and never give. No one knows better than McCain that when all is said and done, that's the only way to live. No one knows better than McCain just how angry you can be when they cage you in with lies. No one knows better than McCain what it means to feel you free when you know the world is yours. 87.9, 23, 59 minuti primi, e quindi andiamo con un'altra traccia e poi abbiamo un 20 minuti di pausa per noi. L'altra traccia è, mentre appunto sull'Ansa si titola che domattina dovrebbero avere inizio i colloqui fra Russia e Ucraina nella foresta fra Bielorussia e Polonia, e sul tavolo ci dovrebbe essere il cessate il fuoco. Ce lo auguriamo, un cessate il fuoco è normalmente l'inizio per poter trattare e mettere fine alla guerra. Ovviamente il cessare il fuoco deve essere bilaterale. Dicevamo, continuiamo con Animal Collective perché vabbè, loro vengono da Baltimora, poi trasferitesi a New York, sono una formazione estremamente eclettica, anche loro dediti alla sperimentazione più assoluta. Ogni disco ha delle caratteristiche sonore differenti. È uscito nel 2022, proprio da poco, questo Time Skiffs. Anche qui con siamo appunto pure qui nel lo-fi, quasi nella ballata, nel folk alterato, disturbato, nell'alternative americano, insomma. Dicevamo, si chiama Animal Collective perché all'inizio proprio della loro produzione, all'inizio degli anni 2000, per loro il suonare era un fatto istintuale, quindi non mediato dalla razionalità o dalla tecnica, e si basava tutto appunto sull'impulso del momento. Animal Collective, dicevamo, ci ascoltiamo quello che abbiamo selezionato, che è la terza traccia di questo lavoro, che si chiama Prester John, il sacerdote John, insomma, eccoli qua. Allora, dicevamo, abbiamo fatto terminare il delirio finale di Animal Collective, il ritorno così dopo le melodie all'astrazione. Vabbè, vogliamo parlare male di Piero Scaruffi, dai. Vabbè, praticamente un'istituzione del web di grande importanza, si tratta di un critico esperto, diciamo, di musica, nonché collezionista, che praticamente da quando il web è nato ha, o comunque immediatamente dopo ha posto, è diventato così il punto di riferimento per chi ascolta musica e vuole una critica, un commento, ma soprattutto l'idea appunto dell'enciclopedico, quindi del poter mettere tutto praticamente, ancor prima che nascesse Wikipedia o altri importanti piattaforme. Insomma, Piero Scaruffi era così, si andava a leggere quello che scriveva Piero Scaruffi. Devo dire che non lo facciamo da tanti anni, non per proprio perché appunto si sono moltiplicate le piattaforme, le fanzine, i luoghi dove poter trovare dei commenti scritti su quanto si ascolta o magari su quanto si vorrebbe ascoltare, capire se si vuole approfondire un argomento o meno, insomma. L'intento enciclopedico un po' è venuto meno perché poi alla fine, insomma, si usano e ci andano un po' in antipatia, ecco, ci è andato, se non altro per l'uso, dicevo appunto, che infine si fa del web e di piattaforme, di siti di riferimento come questo, in cui poi, insomma, il commento dovrebbe essere in secondo piano, ecco. Rispetto alla funzione così descrittiva del prodotto, della gruppo, della cifra artistica, come si dice. Invece, ecco, ci siamo trovati così a leggere degli aggettivi che non avremmo voluto trovare. Nel commentare quello che è la carriera e la musica di 20 minuti che andremo a ascoltare fra poco, cioè in particolare dell'ultima uscita per quanto riguarda Silver Moons, Goodspeed You, Black Emperor. Thank you. insomma dei commenti e delle critiche che ci dovrebbero portare ad evitare o comunque a pensare che l'opera degli ormai 8-9 del collettivo che produce per la Constellation sia una cosa così da ascoltare a brani, a tracce, a pezzetti. L'utilizzo dello stucchevole per le intro rumorose che sono tipiche dei dischi e dei lavori del collettivo di Montreal. Insomma, se i dischi non ti piacciono, scrivi il disco non mi piace. Se la band ti sta antipatica perché è troppo, diciamo, alternativa, ecco, dichiaralo e di vabbè, mi fermo. Credo che ormai non è che scriva le recensioni solo lui, insomma, si serva comunque di collaboratori, data la grandezza e la importanza, la rilevanza che c'ha il sito quando facciamo delle ricerche di tipo musicale. Comunque vi volevo leggere quello che sono i credits, all'inizio dei credits di questa pubblicazione del 2021, perché è veramente così toccante, ci abbiamo bisogno di questi scritti anche in questi ambiti. Vabbè, ultimo disco dei Godspeed You Black Emperor, uscito il 1 marzo del 2021 in Canada, ovviamente. Godspeed at the States End. Che brevemente significa che Dio fa la pipì alla fine dello stato. E così commentano appunto l'uscita di questo lavoro. L'abbiamo scritto principalmente per strada quando quello era un posto praticabile. E per inciso è stato scritto appunto subito prima dei vari lockdown per il Covid, eccetera. Quindi ripetiamo, l'abbiamo scritto principalmente per strada quando quello era ancora un posto praticabile, e poi registrati in maschere in seguito, distanziati all'inizio della seconda ondata. Era autunno e il sole che cadeva era incredibilmente grasso e arancione. Abbiamo cercato di evocare una resa dei conti più luminosa lì, piegato sotto vari stati di disagio, preoccupazione e meraviglia. Abbiamo acceso di nuovo la radio a onde corte per la prima volta dopo molto tempo. E abbiamo scoperto che molte cose erano cambiate. I pastori dell'Apocalisse erano ancora lì, ma urlavano "End time now", dove una volta gridavano "End times son". E i detriti di trasmissioni delle forze armate automatizzate ora occupavano più larghezza di banda, in modo che molte frequenze siano solo impulsi di statica bianca crescente. Codici digitali che annunciano lo stato di varie macchine per guardare e uccidere. E i papà radioamatori parlano tra loro tutta la notte sulle loro mogli morenti e su cosa hanno mangiato a pranzo e su cosa faranno con le loro pistole quando arriverà l'antifa. Questo disco riguarda tutti noi in attesa della fine. Tutte le attuali forme di governo sono fallite. Questo disco parla di tutti noi che aspettiamo l'inizio ed è informato dalle seguenti richieste: svuota le carceri, prendere il potere dalla polizia e darlo ai quartieri che terrorizzano, porre fine alle guerre per sempre, a tutte le altre forme di imperialismo. Tassare i ricchi finché non diventano poveri. Tanto amore a tutti gli altri, perduti e adorabili. Questi sono tempi di morte e la nostra parte deve vincere. Ci vediamo in viaggio una volta che i numeri scendono. Pipì di Dio, Montreal, Quebec, Canada, 1 marzo 2021. Silvia Montezzi, dai. Goodspeed, Black You. Goodspeed, You, Black Emperor. E vi leggo il titolo della prima traccia, che sono tre righe: Military Alphabet, Five Ace, All Blind, 4521.0 kHz, 7730.0 kHz, 4109.09 kHz. Job Lamens, che è la seconda parte, First on the Last Glaciers, Where We Break Our Wishing Rockets for Many. Questa è la prima traccia, 20 minuti per Good Speed, You, Black Emperor. Dash 1, 6, 8, dash 1, 6. Thank you. bene, andatevi, se avete voglia, anzi dovreste, andate a leggervi la storia della brigata Prizrak. E quello del partito della rinascita, questa è Mozgovoi, P38 Punk. Ed è riferita a cose avvenute nel lontano 2015, in quel della Repubblica del Donetsk. Quindi Godspeed You Black Emperor, di seguito Io la tengo. Da qui abbiamo ascoltato Dream Dream Away. E poi appunto dicevamo P38 Punk, Mozgovoi. Bene, 49 minuti dopo la mezzanotte, penso proprio che si è fatta una certa. 25 o'clock, Radio Onda Rossa, ricordatevi di sostenerla. Non dimenticate di sostenere questa emittente. Pur nelle difficoltà, una voce critica stonata nel mare della propaganda. Invece una voce che non è affatto stonata e diciamo dentro un lavoro ben fatto come Monostereo di Pat, per tornare così a problemi molto più terra terra, che però non sono in realtà così lontani da i grandi eventi della storia che ci sottendono. Ed anzi sono strettamente collegati a questi, perché appunto poi dicevamo prima, dalle guerre le prime vittime sono i poracci, insomma, e le poracce, coloro che sotto le bombe ci devono vivere o devono scappare. E questo ovunque e sempre. Hai la testa colorata con la panna. E poi le conseguenze delle guerre sono, le vedremo sotto gli occhi di tutti. Perché sono conseguenze di tipo economico che poi vanno a incidere sulla vita di tutte e tutti noi. E nonché anche di ambito disciplinare, perché ogni volta che c'è una guerra bisogna essere allineati. Non c'è possibilità di critica. E questo appunto in questa guerra senza fine, senza soluzione di continuità che ci accompagna a livello planetario e globale. Hai la testa colorata con la panna, la panna. È una costante. Dicevamo Pat, ritorniamo a lui, ritorniamo a, diciamo, di tutto il disco, questa è una roba uscita veramente bene, bravo Pat, glielo dobbiamo dire. Ultima traccia appunto del lavoro Monostereo, si chiama Vita Nuova e ce la auguriamo tutti. Pat a Radio Onda Rossa. pezzi da 5 in tasca, meglio così. Roba da niente, dicevi piano, prima di masticarmi il cuore e sputarmelo in mano. E se senti la mia voce, dovresti stare in questa stanza adesso. Ma tu vuoi vedermi perdere lo stesso. Ma tu vuoi vedermi perdere lo stesso. Vita nuova, venerdì. Vita vecchia e morta, meglio così. Ogni giorno per essere cattivo ne ho avuti parecchi. Resisto tutto il giorno, resisto a denti stretti. E se senti il mio dolore, potresti salvarmi da ogni male. Ma tu vuoi la mia sconfitta sul giornale. Ma tu vuoi la mia disfatta sul giornale. Sei te che non hai mai creduto in me. Sei te che non hai mai creduto in me. Vita nuova, venerdì, pezzi da 5 in tasca, meglio così. Soldi non sono niente, me lo dicevi piano, prima di masticarmi il cuore e sputarmelo in mano. E se senti la mia voce, dovresti stare in questa stanza adesso. Adesso. Ma tu vuoi vedermi perdere me stesso. Ma tu vuoi vedermi perdere me stesso. Ma tu vuoi vedermi perdere me stesso. Ma tu vuoi vedermi perdere me stesso. La mattina a inizio turno, appena la madre esce di casa affidandoli alle mie cure, potrei soffocarli con i loro soffici cuscini imbottiti di piume d'oca prima che si sveglino. Colazione, una dose letale del mio Xanax da bozzetta potrebbe scivolare nelle loro tazze di latte parzialmente scremato. In bagno potrei incoraggiarli ad aggiungere un po' di candeggina al colluttorio per un bianco splendente e duraturo. Dopo aver raccolto la biancheria sporca dal pavimento, potrei infilarla nelle loro bocche e nei loro nasi per evitare il prelavaggio. Lo schermo strapiatto su cui guardano i cartoni animati potrebbe cadere sulle loro teste e spiaccicarle in meno di un secondo. Potrei sostituire la protezione solare da spalmare su schiena e viso con dell'acido corrosivo. In spiaggia, mentre sguazzano tra le onde, potrei sfilare loro i braccioli e annegarli senza problemi. A pranzo potrei lasciare che usino i coltelli più taglienti e nel caso la strategia non andasse a buon fine, potrei invitarli a tuffarsi in acqua subito dopo. Quando mi gridano di sotterrarli nella sabbia, potrei prendere questa richiesta alla lettera e andarmene prima che qualcuno intervenga. destino del ghiacciolo nelle loro gole. In auto potrei scordarmi di allacciare le loro cinture di sicurezza e sterzare improvvisamente contro il guardrail. All'ora dei compiti non dovrei pensare a niente, perché si ammazzerebbero da soli pur di non farli. Durante la doccia potrei sequestrare il tappeto antiscivolo e chiudere a chiave la porta del bagno. Potrei convincermi che la cantina è il miglior posto dove trascorrere la serata e che le scale non sono troppo buie né troppo ripide. All'ora di cena potrei affettare le carote e le loro lingue, così il sapore dei piatti non sarebbe un problema. Durante la preghierina della sera potrei spiegar loro che Dio è proprio là, fuori dalla finestra, e che saltando avranno accesso a una splendida vita eterna. La fiaba della buonanotte potrebbe parlare di com'è bello correre a perdifiato con le forbici in mano. Una volta addormentati potrei dimenticare il fornello del gas acceso e uscire di casa senza fare rumore. Allora sì, che sarebbe una splendida routine. Allora sì, che sarebbe una splendida routine. I'm 1-0-3, abbiamo veramente sforato ogni tempistica. E abbiamo proseguito quindi con La Morte Babysitter. E poi sotto la nostra voce Mod Selector. Yendo Dancehall. Da lavoro extended. Vabbè, con questo veramente abbiamo detto tutto. Mentre in attesa dei negoziati di domani mattina, l'ANSA ci dice che i russi conquistano la città di Kherson. Notizia non confermata dal sito di informazione russa Sputnik. Va bene, comunque, insomma, le programmazioni della radio terminano qui, in diretta riprenderanno eccoci risiamo, dicevamo, trasmissioni che riprenderanno in diretta domani mattina. Dopo che vi avrà tenuto compagnia per tutta la notte la compagna automatica suonata con le sue repliche e con le sue selezioni musicali, dicevamo, giovedì prevede l'apertura dei microfoni alle 8 con la lettura delle prime pagine dei giornali, la rassegna stampa cittadina, i redazionali, quel che succede dalla città e anche dal resto del mondo. Siamo tra l'altro tutti in vista dello sciopero dell'8 marzo. Gira lo spot che molto meglio di noi riassume quelle che sono le parole d'ordine dello sciopero. Continuando col palinsesto di domani, pausa per intorno all'ora di pranzo, 14 alle 15 tutta scena cinebra, alle 16 Attica Blues, oltre la Black Music, alle 17 Le Schiene del Sol, alle 20 e 15 Tabula Rasa, la trasmissione sui libri di Lion De Rossa, alle 22 chiude la programmazione Apostasia. Il nostro saluto più importante va a tutti e a tutte coloro costretti a condizioni di limitata libertà personale, il carcere, la latitanza, la clandestinità, gli arresti domiciliari, i vari dispositivi, di tipo amministrativo che vengono messi in campo per limitare comunque le nostre libertà di lotta, di incontro, di socialità. Come dicevamo, non ci saremo per tre puntate. Il 30 marzo, se non erro, è mercoledì, e torneremo in quella data. Chissà in che forma, in che contenuti, crediamo, sospettiamo di nuovo di ritornare nel silenzio con un trip virus. Vediamo in queste tre settimane come riusciremo a riempire, a contattare, a trovare compagne di viaggio o compagne di viaggio. Vabbè, bella a tutte e a tutti, noi ci risentiamo più in là. Dai! Let's all share our dreams. Let's all share our dreams. And here come in this moon. again, tonight we'll win. Let it begin, tonight we'll win. Yeah! Let's all share our dreams, all share our dreams. Let's all share our dreams of a communist moon. All share our dreams, let's all share our dreams. All share our dreams of a communist moon. The moon up above showed you the love. See us through the night, see us through. Dreams under a communist moon.